voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. I'll go home and get your fucking shine box. Motherfucking 1990, Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Paul Sorvino, Lorraine Bracco. Questo è parte del cast di Goodfellas, il film che ha caratterizzato sia quest'oggi l'apertura di Eclettica in questa sua seconda parte, che anche nella prima parte era comparso un monologo di una trentina di secondi. E questo è il film perlomeno della prima metà di Eclettica di questa settimana nelle sue prime due parti, seguito quest'oggi poi da un brano dei Soledad Brothers dal Midwest statunitense in circolazione dal 1988, prima sotto forma di duo, ora sono in quattro, un disco, The Hardest Walk, che ci siamo ascoltati con la traccia dal titolo Downtown Paranoia Blues. E invece adesso ci ascoltiamo un altro brano, esattamente come quello dei Soledad Brothers, che costituirà pillola questa settimana. Un brano che arriva grazie alla Sleeping Star, qua nella mia casella di posta, con una busta che ho aperto proprio all'inizio di questa settimana, con estremo piacere, per un disco che troverete nei negozi dal 30 di giugno e che risponde al nome di The Whitest Boy Alive, un'avventura partita come elettronica, di cui faceva parte Erland Oye, di cui ancora fa parte Erland Oye, però l'elettronica è stata abbandonata per veri e propri strumenti, voce, chitarra, basso, batteria, Rhodes, il tutto registrato a Berlino, un album dal titolo Dreams, e un album che, nonostante l'assenza di elettronica, si candida ad essere uno dei più ballati dell'estate, dal quale in Eclettica ci ascoltiamo Burning. Stop. So many people telling me one way. So many said my mind made up. Caught an emotion that I don't want to stop. So many people telling me one way. So many people telling me to stay. Never time to my mind made up. Caught an emotion that I don't want to stop. That I don't want to stop. We'll be right back.

Devo fare un po' d'ordine prima di lasciarvi con la prossima traccia della seconda parte di Eclettica. Infatti ci siamo ascoltati parecchia musica, intercalata anche da un incipit, però non vi ho spiegato che cosa vi siete ascoltati. In ordine, Mr. Tube and the Flying Objects, già in questa settimana sono passati Black Heart Possession. E cosa direte, c'entrano voi? E cosa direte voi c'entrano? Questo dovrebbe essere l'ordine corretto, sempre che non mi sia sbagliato ancora. Mr. Tube and the Flying Objects con i Black Heart Procession? Beh, perché i Mr. Tube and the Flying Objects sono un side project. Listen Up è il titolo del disco, Sweet Nothing l'etichetta. Di chi? Di Paul Jenkins. Noi ci siamo ascoltati il brano dal titolo Trying. E poi è stata la volta degli italiani Frankly Delano, da quella compilation a doppio nome in termini d'etichetta, Awful Bliss per quanto riguarda l'altra parte dell'oceano e Urtovox per quanto riguarda questa parte dell'oceano. Di nome Songs for Another Place, il nome della compilation, vede due dischi, uno rosso statunitense canadese e uno nero italiano. Da quello nero la traccia numero 7, Frankly Delano, già nominati con You'll Never Get. E poi invece un estratto da Scale, l'album a nome Herbert, che poi è conosciuto, almeno l'anagrafe anche con me, Matthew, ma in questo disco solo Herbert. The Movers and the Shakers, il brano che vi siete ascoltati in Eclettica, ed ora da Montreal, Canada, in uscita, ormai dovrebbe essere uscito, questo particolare non me lo ricordo, comunque il nuovo disco dei Dead Ears che da qualche settimana ci stiamo ascoltando, album Gang of Losers, dal quale il brano estratto è Fear Made the World Go Round. You're trying. pretend to love. All those people that you think of. Che arriva a metà per quanto riguarda questa settimana. Siamo alla chiusura di quella che è la seconda parte di Eclettica. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ricorda Giulio at RadioRockFM.com e vi lascia con i Black Eyed Susan and Silence Will Begin Soon. Thank you. Eclettica, fine della seconda parte.